ascolteados. No, ho tornato, che fine ha fatto? Ah, boh, non lo so. Poi di giorno non lo sento. Non lo so, non lascio via, non lo sento. Elena, abbiamo fatto un bel QSO con Elena. A me pare che se devo fare la vedere per andare in spagnolito. Io non mi credo un medalo. Eh? Non credo molto. E perché schifo ti fa se te lo paga lì? Se me lo paga lì, va bene. Dobbiamo avere 850 la riccia. Punto. Vabbè, tu dici che stai andando a una fiera di lavoro per avere un punteggio. Infatti. Alleluia. Così la signora va bene, va. Non si fa la chiacchierattina, se va bene. Se tu fate il conto che questa Elena, dove sto lavorando io, mi arriva a Santiago 9:10. Ma no, forte, caspita, forte arriva, Forte, forte, forte. Io gli sono arrivato 9 e radio 5. E ancora non è aperta bene. La gente non usa bene la propagazione. Se la rete vedrà, ma se vediamo. Ti sto dicendo che a volte mi è capitato che la gente di Sassia, io neanche la sentivo, fatelo conto. Sì, perché loro arriva la bomba, Alessio, arriva la bomba. Mi sono tornato a forte lì. Ma per tu adesso vedi, per esempio, se lei a te ti arriva 9:10, 9:20, e io da casa mia non riesco a trovare quel segnale, passa lì e io non mi passo. Addirittura, era un po' a tutti succede, però vero? Vabbè, a tutti quanti, no. Se tu, per esempio, vedi, tu a casa mi arrivi Santiago 9, se c'è qualcuno più forte di te, tipo che mi arriva già 9:05, 9:10, io a te non ti sento. Beh certo, funziona così, il più forte arriva sempre più il primo, diciamo. La propagazione così, ancora non si è aperta, è strano che sia ancora non si è aperta. È strano sì, cazzo, guarda che l'anno scorso a quest'ora eravamo anche stanchi a fare di ex, ma fino a mezzanotte lì, alle 10, alle 11 di notte, sempre propagazione. Ma il movimento si va a vedere. Capparoggio si va. Ehi, a bomba si qua. Guarda, a me mi più forte dalla macchina che da casa. Io sono più vicino adesso, credo tu. Ah, sì, con le coordinate. Ehi, a mano sto. Ah, positivo, positivo. Comunque si è forte. Ma non solo lì. Caspita, se ne erano altri che stavano facendo la bomboletta lo stesso, Se te lo sto dicendo, fa che funziona così la propagazione. Ah, va, guarda, già è bello, però troppo uno si accavalla l'uno l'altro, è un macello, è peggio di lui, Ma guarda, ci sono giorni a volte d'estate, così quando c'è molta propagazione, devi solo avere un malacchino, che non si comprende un cazzo proprio. Certo. Quanti? Buonasera. Buonasera. Buonasera, buongiorno, buonasera, mi sentite anche dalla ruota? Mi hai sentito, buonasera anche a Claudio, mi hai sentito anche a Domenico, dove sei diretto tu, Mille? Domenico, buonasera, ben ascoltato, non so se mi senti. E ti sento, ci sento a tutti. E indovinate dove vado io ogni giorno? Indovinate, perché non lo sa nessuno dove vado io. A gettare le bombarde. La settimana scorsa sono venuto da voi a ritirare delle scarpette che ci hanno mandato a Cagliari. Ti ho visto. Ti hai visto? No, non ti ho visto le scarpette, quando arrivano io le vedo sempre, le ricarico io intanto. Che parola avevi visto a me? Stavo guardando ma tu non c'eri, sono venuto proprio verso le 10, 10 e mezza. Non gli erano da parte io. Ciao Domenico, ciao Anto, buonasera. Ciao Claudio, buonasera anche a te, mi hai sentito? Adesso, buonasera a tutti. Ciao Mario, buonasera. Ciao Romeo, dove sei andando, Olbia? Positivo, sempre lì, Claudio, sempre lì, in direzione di Città Pompale. Buonasera anche al vecchietto, anche se Antonio, ciao Mario, a frappè. Buon proseguo a tutti, ciao ciao, vai Mario. Ciao Clark, ma più che morti e fuggi, sì, yeah. Andrà bene, va boh. Buon proseguo di serata, ce la risentiamo alle prossime, Clark. A te, brutta vecchiaccia della Malaysia. Te lo do io, tu metto il gambetto e ti posso viaggiare a bocca a terra. Ci sono anche mie. Parata lì. Scusate, là, io sono arrivato in parcheggio qua. Buonasera, tutta la ruota, ci sentiamo. Bulldozer, chiude e ci sentiamo alla prossima. Ciao, ciao. Ciao, la sedia, ciao. Ciao, la sedia. Tutti qua, un occhio al fornello che ho messo. scappa, una bella doccia, carichi e poi vai a passeggio. Mi sa nanna. Ma quale nanna, a passeggio a cercare qualche bella mogliacca. La signora non ce lo permette. E poi trovi anche tanto per viaggio. E lo mio Puglia. Ah, wow. Bassissimo, ma ce l'avevo dietro, non è che... Ehi, ehi, ehi, ehi. Adesso me la canto, me la canto. Sono bello dritto il petalo. Ah no, ma stavi girando? capito perché li fanno giù a Cagliari quando c'è lì a Valghero quella che fa i fabbricati e proprio li ha attaccato. Sicuramente li fanno il prezzo più basso giù. Fanno in fretta comunque, sono quei costi enormi. Sabbia a caricare il camion. No, no, piano piano. Vabbè, sono alto, un metro, sono basso, 1,50 m, va bene. Tutto bene, sei incisioni. Incisioni, massaggi, non ti ponte. E fai, dove ci vuole c'è tu. Oh, vera a passare appunto, vai. Roba di acciaio e paludi quella roba. latte alla faccia della mia ex. Si siete vede? Che bambina la poveraccia. Ma è da non dobbiamo fare, perché io, come gli ho detto, mi è giunta la marita, no? Ma manca in messaglia, cambio, mi sono andato da pigliato, da pesare, si l'ha fatto. Cazzo, che domani mi ha telefonato, mi ha ucciso, mi ha tirato. Beh. E io cosa ho detto giù, il tempo non mi ha fatto nulla. Anche prima non lo sa, a me mi aveva fatto male, ma deve essere un diffuso, non lo so. E da io sono un amico figliato, adesso non mi fa più nulla, capito? Aida l'ha ammazzata la poveraccia. Beh, la parecchia non mi voglio avvicinare, ma è da buro, buia, ma... E penso non le piglia più gli altri, no? Sì, ma penso brutto. Ma come ti mi ha giocato da due io, da mi è giunta gana, non pensa che la chissà campana che non pigliava. Si ha fatto un caffè e latte, l'ha immediatamente uccisa. Mannaggia la mia, io sciolino, mannaggia. Adesso vediamo se, se Claudio ha pensato, Claudio ha pensato, vai. Mi pare che mi sta avendo un buco qui. Ha detto ieri la Vicios, ma Marino De Ricci, associarli a domani soltanto che sono a loro, li metto un po' di dolcere da parte gamba. E ci abbia non mi dirai, ma giù la bassa asciutta del parchetto, Dio buono. Pasta gialla di quelle col pelo, buone buone buone. vedo la roccia sott'acqua, ecco. Staccate la roccia e mangiate subito, fresche, così sono omicidiali, ma buone. Passaggiarla, metti i cartucci e via. Via, gappa, gappa, già lo so già. Quando ero più ragazzo li facevo anch'io. Come il tuo, c'è la notte che c'è un microfono diverso. io 3. Tu 7, tu 7 e lui 3. Oh, ma lui mi si fa di radio, capito? No, lo sento sotto, ma cioè capisco a te, allora capisco. Ti disturba, capito? Non mi capisco. No, guarda un po' a vedere se lo credo, se lo credo, se lo credo. Mamma mia, mi biglia. Ma ragazzi, io vi saluto, va. Ci adesso chiamo tutte alle prossime. Buonanotte, buon proseguo, buon tutto. Alle prossime. Ciao Luca, ciao Savese, ciao Natalino. Allora, anch'io vi saluto tutti. Che vado a mangiare poi mi corri cosa fa morto. Ah, e allora ce ne va anche un po' di giorni, un po' di tempo. Aspettiamo le prossime, saluto a tutti, dai. Un proseguo di speranza. Ciao Mario, ciao Natalino, ciao Luca Riello, ciao Falchetto, ciao tutti. Salutori Mario, dai, salutori anche a te. Buon tutto, buon 144 quando lo fai e ce la riascoltiamo alle migliori. Avanti Natalino. Sentiamo dopo decisione, va bene, a dopo se coincide.